oggi pensa a me? Te lo sei mai chiesto? Che qua tutti i giorni fa buio troppo presto? Chi ci pensa a noi che stiamo fino a mattina sempre persi tra lupo, birra e nicotina, con quest'ansia che prende e ti rovina, con la musica come medicina, che cerchiamo un compromesso con il tempo per vedere che ora va più lento, per non far scappare ogni momento, oltre tutti quelli che ho già perso, oltre tutto quello che non sento, oltre questo sole adesso spento, oltre a tutto questo sentimento, oltre a questo mare, a questo vento, oltre a quello che rimane fuori, oltre a quello che non c'era ieri, oltre a quello che non resta più. Ora vola via dai miei pensieri, ed adesso chiediti perché, anche oltre quello che non c'è, io resto con te, io resto con te, io resto con te. Siamo soli coi nostri problemi, chiusi nella testa, sempre prigionieri. Quando poi li uniamo coi nostri suoni, dopo basta poco per tirarli fuori. Alla fine siamo quello che vedi, non ci serve tanto per restare in piedi. Quando dai di più di quello che ricevi, dimmi solo adesso in che cosa credi. Cosa ci resta se quello che conta poi alla fine è sempre fuori di qua? Che cosa importa se poi diventa solo e soltanto quello che importerà in questa vita fatta solo di sbagli? Dimmi alla fine, dimmi chi vincerà, tanto è lo stesso e sai perché. Comunque vada qua, io resto con te, io resto con te. Comunque vada, io resto con te. Sono attimi, solo attimi, sono attimi, solo attimi. Comunque vada, qua io resto con te. Sono battiti, solo battiti, sono battiti, solo battiti. Comunque vada, qua io resto con te. Sono battiti in questi attimi, sono battiti in questi attimi.